Il codice afferma che se la corda ha una lunghezza maggiore o uguale a 10 metri, allora il valore di acqua raccolta è falso, cioè l'acqua non viene raccolta. Al contrario, se la corda è più corta di 10 metri, il valore di acqua raccolta è vero, quindi l'acqua viene raccolta. Ma è davvero questo il comportamento che vogliamo?